Ben collegati a tutti, sono Stefania e sono qui a Radio Big World, che mi danno l'opportunità di esprimere i miei pensieri nel mio spazio, il popolo di Barabba. E stamane mattina ero in compagnia con il mio nipotino e voleva sapere del mio viaggio in Africa, precisamente nella Repubblica Democratica del Congo. Ho cominciato a raccontare. E vabbè, le ho raccontato le cose che ritenevo opportuno, anche dietro alle sue domande, ai suoi stimoli. Nel venire poi qui in radio, ho ripensato nel tragitto al mio programma Il Popolo di Barabba e quando io mi sono sentita partecipe di questo Popolo di Barabba, di quando mi sono sentita protagonista nel Popolo di Barabba. Una del popolo di Barabba. Devo dire quasi sempre, l'unico momento, l'unico periodo, anzi non momento, in cui non mi sono sentita così è stato il mio viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e ancor prima in Tanzania, in Africa, insomma. Mi sono chiesta il perché. Ovviamente non c'è un perché, c'è tutta una serie di situazioni che sono la causa di questo mio sentimento. Appena sono arrivata in Repubblica Democratica del Congo, un paese devastato dalla guerra, la prima cosa che mi è saltata agli occhi, oltre alla devastazione della città, era la polvere, quella polvere rossa, perché le strade non sono asfaltate e quindi noi respiriamo in continuazione quella polvere rossa. E alla mia compagna mi venne spontaneo chiedergli: ma secondo te, Lucia, questa polvere sicuramente sarà dannosa, perché io fra 3 giorni probabilmente sarò fioca, ma è più deleteria questa polvere qui oppure quello che respiriamo nel nostro territorio in Italia? E vabbè, lì chiaramente dice lei da medico, dice: ma sicuramente quella che respiriamo in Italia, perché questa viene praticamente fermata da quei pelucchi che abbiamo nel naso, quindi ne respiriamo meno, mentre quella che respiriamo noi nel nostro territorio sono quelle polveri sottili che si insinuano tutte nei nostri polmoni. E quindi dissi: beh, allora ben venga la polvere rossa, tutto sommato. E queste riflessioni sono andate avanti per diverso tempo. Dico, in Africa mi sono sentita, tra virgolette, libera di vestirmi come mi pare, anche se questa sensazione ce l'avevo qui nel mio territorio, però in effetti non è così. Ero condizionata, sono condizionata da tutto ciò che mi circonda e da quello che detta la moda. Ve lo immaginate? Io non me la sentirei mai di andare fuori vestita con le ciabatte d'inverno oppure con un vestito africano colorato in un qualsiasi luogo nostro. Non me la sentirei, perché penserei, cioè sarei presa per una demente. E non lo so, però, verrei presa come una demente, mi condiziona così tanto, perché io non sono demente. E se mi volessi vestire così, avrei tutta la libertà e tutto il diritto di vestirmi così. Non vado ad invadere la terra, non vado ad invadere la personalità di nessuno. È solo io che mi voglio esprimere in questa maniera. Ecco, in Africa queste domande non me le facevo. Io quello che trovavo la mattina è quello che mi mettevo. Non avevo nemmeno questi pensieri. E quindi sono stata 2-3 mesi, sì, in Africa, e devo dirvi, cari amici, che sono stati periodi duri, sicuramente duri, perché molte sono le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno. Pensiamo al problema dell'acqua, pensiamo al problema del cibo. Noi siamo diventati in Italia il popolo credo più longevo insieme ai giapponesi grazie alla nostra dieta mediterranea, quindi abbiamo raggiunto delle eccellenze in questo. Pensiamo che i bambini non muoiono più di malattie come il morbillo e come tante altre perché abbiamo i vaccini. In Africa non è così, pensiamo che possiamo appunto entrare in un negozio e comprarci quello che in quel momento ci può piacere, abbiamo questa opportunità. In Africa non è così, l'acqua apriamo il rubinetto, in Africa non è così, tante sono le cose faticose da dover sopportare ogni giorno, però c'è questo però, che io sta fatica oggettivamente non l'ho sentita più di tanto, perché poi ho cominciato a pensare, sì è vero, bambini in Africa muoiono di morbillo, di malaria, hanno la scabbia, hanno tutte quelle malattie che noi non abbiamo, però non muoiono di droga, non ci sono atti di bullismo, non hanno le dipendenze, almeno fino a che sono bambini, non ragazzini, non esiste questo aspetto, non soffrono di depressione. Infatti le medicine che noi portiamo generalmente ai nostri amici non sono certo gli antidepressivi, ma sono antinfiammatori, sono antibiotici. E quindi mettevo sul piatto della bilancia queste cose. Da una parte il nostro essere arrivati, non dico alla perfezione, certo che no, però essere arrivati ad un punto tale che ci consente una vita agiata, dall'altra sono ancora agli albori, diciamo. Noi abbiamo avuto una lunga storia dai Romani, dai Babilonesi, gli Etruschi, il Medioevo, il Rinascimento, fino ai giorni nostri, le due guerre. E loro non hanno avuto tutto questo, quindi la loro storia è completamente diversa dalla nostra, forse un po' più povera da un punto di vista di esplorazioni, di tecnologie, di studio. Però quanta umanità ho trovato io in Africa e che non riesco a trovare qui nel nostro territorio. Cosa abbiamo smarrito nel nostro lungo percorso? Qualcosa ci è sfuggito di mano, qualcosa non abbiamo capito, che forse la relazione era importante, coltivare le relazioni tra gli uomini e non rincorrere solo quella grande tecnologia che comunque ci fa stare da un certo punto di vista molto bene. Questa cosa l'abbiamo persa, devo dire. Credo che dovremmo recuperarla, perché diversamente non andremo da nessuna parte. A un certo punto ci dobbiamo fermare, perché la tecnologia non ci darà, non ci colmerà poi quei vuoti che vengono invece fatti con l'assenza di relazione e con l'assenza di amore, quelle voragini incredibili che ci fanno sentire ogni giorno più soli. Ecco, questo è praticamente quello che vorrei fare nel nostro territorio, ideare progetti affinché le persone possano stare insieme, possano capire i benefici dello stare insieme. Grazie.